Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa trasmissione dovrebbe essere anche un modesto strumento per rafforzare la conoscenza della lingua italiana, che naturalmente trova lo strumento principale di diffusione nei libri. E per ricostruire la storia e le origini della nostra lingua, soprattutto per capire i possibili sviluppi, che molti immaginano catastrofici, dell'italiano, vi segnalo un libro che ho trovato molto utile, di una insegnante e giornalista, Mariangela Galatea Vaglio, e si intitola L'italiano è bello, una passeggiata tra storia, regole e bizzarrie, pubblicato da Sonzogno, 218 pagine, 16 euro. L'italiano, rispetto alle altre grandi lingue europee, soprattutto, ha la caratteristica che il suo sviluppo non ha accompagnato e non si è accompagnato con l'affermazione di un grande stato nazionale. E dunque la sua formazione, la formazione della lingua dell'italiano e la sua diffusione furono, come scrive l'autrice, il primo vero compromesso storico in Italia. Fu il frutto di una sintesi, una sorta di esperimento di laboratorio, un linguaggio che nessuno parlava in una nazione che non esisteva. Ma la conseguenza fu significativa, e cioè il fatto che questo peccato d'origine, per così dire, anziché rivelarsi una debolezza fatale, scrive sempre l'autrice, fu un punto di forza. L'italiano, proprio perché non era parlato ma scritto, e per di più solo da un'elite colta, fu molto meno esposto a cambiamenti e all'usura del tempo. E il libro si sviluppa con una prima parte che fa la storia della lingua, passando attraverso i grandi scrittori che l'hanno costruita, per così dire, e poi con altri capitoli sulla nascita delle parole, sull'italiano scritto, fonte costante di croci e delizie, come scrive sempre l'autrice, e si conclude con un piccolo manuale di retorica particolarmente importante nell'economia del libro, perché questo parte da una raccomandazione, quella di considerare il buon italiano come uno strumento insostituibile per adempiere a quella che ormai è diventato un obbligo per tutti, saper comunicare. E da questo partiamo per parlare con l'autrice. Buonasera Mariangela Galatea Vaglio. Buonasera. Mariangela Galatea Vaglio, parliamo allora di lingue. Partiamo dalle prime righe del suo libro, dove lei sottolinea come sia importante saper comunicare e quindi anche saper parlare bene. Insomma, ai giovani conviene leggere qualche grammatica oltre che qualche libro? Leggere qualche grammatica funziona sempre, soprattutto direi nella società di oggi, che è basata in gran parte sull'abilità di comunicare, e per comunicare in maniera efficace, costruire bene le frasi e comunicare correttamente quello che si vuole dire, quello che si pensa, è fondamentale in tutti gli ambiti, direi ancora più che nei tempi passati. Ecco, parlando della lingua, lei comincia sempre il suo libro ricordando una verità che a molti sfugge e che può apparire paradossale, cioè che il primo compromesso storico in Italia è stato l'italiano. In che senso la nostra lingua è stato un compromesso? Beh, la nostra lingua in realtà nasce in maniera molto diversa da quelle di altri paesi, perché nasce in pratica in una nazione che non esiste. Quindi manca un centro aggregatore che possa anche imporre in qualche modo un linguaggio, e di conseguenza nasce proprio in maniera, intanto alle volte un po' random, nel senso che partecipano alla costruzione dell'italiano intellettuali che vengono un po' da ogni parte della penisola. E poi perché è un continuo compromesso, non essendoci un centro che riesce ad imporre una regola che valga per tutti. E anche l'adozione del toscano è abbastanza accidentata come punto di riferimento. L'italiano è nato da un continuo compromesso, da un continuo lavoro di limatura fra quelle che erano le lingue e i dialetti parlati nella penisola e quello che doveva essere uno standard comprensibile per tutti. E la lingua inizia con due svolte, lei sottolinea. La prima lo definisce un salto di qualità, quello che rappresentarono i siciliani, i poeti siciliani, che formarono la prima scuola poetica che usa un volgare italiano. Sì, perché appunto abbiamo visto come l'italiano è proprio italiano in quanto è frutto della cooperazione tra intellettuali di diverse origini e anche di diverse provenienze geografiche. Nasce appunto in Sicilia, peraltro alla corte di un imperatore di origine tedesca, cioè Federico II di Svevia. Nasce da una serie di personaggi appunto che cominciano a scrivere delle poesie in volgare siciliano, e poi comincia un tour in tutta Italia, passa in Toscana, ma prima di arrivare in Toscana arriva a Bologna, e poi viene portato a dei nuovi livelli dai tre grandi toscani, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, che poi in realtà sono tre toscani molto atipici, perché in Toscana ci spettro pochissimo in realtà. Veniamo allora al primo, a Dante, che appunto rappresenta la seconda svolta. Lei lo definisce un miracolo, Dante, in che senso? Perché alle volte leggendo la sua biografia ci si chiede come sia potuto arrivare a certi risultati, nel senso che in realtà era un uomo che aveva tutto che gli remava contro, era originario di una famiglia forse di nobile origine, ma sicuramente relativamente povera rispetto alle altre grandi di Firenze. Non ha avuto sicuramente accesso a delle biblioteche fornitissime, o perlomeno non sue, è andato a pescare i libri un po' dove li trovava. Ha avuto una vita piena di disgrazie politiche, perché indubbiamente è stato travolto anche dalle svolte politiche di Firenze e ha dovuto viaggiare da una corte all'altra portandosi dietro anche poche cose. Quindi veramente in mezzo a questo marasma di vita e a tutto il marasma che era quell'epoca, quel periodo del Medioevo, resta veramente una cosa stupefacente che sia riuscito prima a trovare il tempo per scrivere le sue opere e poi che le sue opere siano così straordinariamente mature anche dal punto di vista della lingua, perché da solo è riuscito a fare un lavoro pari forse a quello che ha fatto Michelangelo dipingendo la Cappella Sistina da solo, ecco. E la sua opera, insomma, la Divina Commedia, per lei è un laboratorio continuo. Che cosa sperimentò nella Divina Commedia, Dante? Un po' di tutto, nel senso che lui ha creato praticamente una lingua vivissima, che però per larga parte si è inventato fondendo insieme diverse cose, perché poi quando si dice che Dante prende a modello il fiorentino si dice una cosa leggermente imprecisa. In realtà Dante si ispira a vari volgari, li ha studiati molto perché aveva composto il De Volgari Eloquentia, quindi in qualche modo li aveva anche studiati in modo scientifico, e la sua idea è proprio quella di costruire anche a tavolino un linguaggio che possa servire per tutta l'Italia e che possa finalmente essere usato allo stesso livello in cui veniva usato il latino all'epoca, cioè potesse essere usato sia per la poesia ma anche per la prosa di alto livello, per le corrispondenze imperiali, per la filosofia. Quindi Dante ha veramente delle ambizioni grandissime. La cosa incredibile è che in genere chi ha grandi ambizioni non sempre si rivela all'altezza. Invece Dante ci riuscì perfettamente. Poi invece viene Petrarca, che lei definisce il setaccio. Sì, perché mentre Dante è un vulcano che produce una serie di cose assolutamente innovative, Petrarca in questo è molto più metodico e decide in qualche modo di setacciare tutto quello che è arrivato a lui e di trarne appunto anche il succo. Era un uomo di carattere completamente diverso rispetto a quello dell'Alighieri, era molto più tradizionalista da questo punto di vista e molto più umanista forse come spirito. Lui cerca di fondare un canone a cui fare riferimento per produrre la futura letteratura. Letteratura per la quale diede un contributo particolare Boccaccio, il terzo dei grandi, che lei avvicina più a Dante però dal punto di vista linguistico, come ruolo che ha svolto per la formazione della lingua italiana. Beh, certo, perché se Dante, diciamo così, è famoso più che altro appunto per la poesia, Boccaccio è sicuramente il fondatore della prosa e lo fa studiando anche lui tantissimo. Di Boccaccio si ha questa idea un po' allegra, ecco, che tutto sommato non gli rende una grande giustizia. Boccaccio su certe cose era incredibilmente secchione, studiò approfonditamente la prosa latina. Se la prosa italiana si è sviluppata diventando immediatamente una prosa corposa, in grado anche di affrontare argomenti diversissimi, lo si deve al fatto che lui veramente ci ha sputato il sangue sopra per creare una lingua per la prosa che potesse stare in pari a quella dei grandi classici latini che lui comunque aveva assimilato e studiato. Poi il suo libro, dopo i tre grandi, fa un excursus nell'evoluzione della nostra lingua, della lingua italiana. Come si può riassumere questo excursus? C'è stato un flusso lineare nello sviluppo della lingua? No, ci sono stati, diciamo, una serie di alti e bassi. In questo lo sviluppo della lingua è molto darwiniano sotto certi punti di vista. Innanzitutto c'è stato un grosso peso della politica. perché anche l'adozione ad un certo punto del toscano come punto di riferimento è dovuto a quel grande personaggio storico che fu Lorenzo il Magnifico, che veramente riuscì in qualche modo a far riconoscere al toscano questa funzione preminente. Poi, proprio perché l'Italia è policentrica, ci furono tutta una serie di svolte, anche abbastanza imprevedibili. In sostanza, alla fine, il toscano viene riconosciuto come punto di riferimento dopo una feroce baruffa tra due veneti, cioè tra Bembo e Trissino. E poi nel 600 abbiamo un andamento abbastanza complicato. Abbiamo la nascita dell'Accademia della Crusca, la nascita del primo vocabolario europeo, che è stato quello appunto italiano, e poi abbiamo un andamento altalenante, in cui comunque molti sono gli apporti da parte di intellettuali diversi, e anche alle volte altalenanti sono i risultati. Non sempre si riesce a mantenere l'altissimo livello che avevamo raggiunto nel Medioevo, appunto grazie ai tre grandi. E questo excursus si conclude con un riferimento alla lingua televisiva. Come mai non si è avventurata nell'italiano dei social? No, c'è anche un piccolo paragrafo che si occupa dell'italiano dei social e di internet. In realtà, perché l'italiano dei social poi è una novità, è abbastanza recente, ma non è che poi sia così differente dall'italiano che viene parlato fuori dai social per adesso. A parte alcune varianti o l'adozione di alcuni termini, in realtà non c'è ancora, anche perché i social in Italia sono arrivati in maniera massiva da pochissimi anni, non c'è in realtà uno scardinamento di quelli che sono i normali usi dell'italiano. Abbiamo una serie di forme idiomatiche che sono state adottate a partire dalla rete, ma tutto sommato l'italiano che si scrive e si parla nei social è abbastanza simile a quello che si trova ancora parlato per la strada. Possiamo sperare. Grazie a Mariangela Galatea Vaglio, autrice dell'Italiano è bello. Buona serata. Buonasera. E sul tema segnalo anche Sgrammaticando di Fiorella Zoni, che da brava comunicatrice capisce l'importanza dell'italiano corretto e ha dato vita a un canale YouTube sulla lingua italiana. Questo libro è pubblicato da Centauri, 238 pagine, 14,90 euro, e in 49 capitoli ci dà tanti chiarimenti su dubbi molto frequenti che possono sorgere sul buon utilizzo della lingua, per evitare gli errori più raccapriccianti che la diffusione soprattutto della comunicazione in rete favorisce. Sono tanti gli errori, ma, nota l'autrice, sono più o meno sempre gli stessi, e allora cerchiamo di conoscerli per evitarli. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto siamo bombardati da informazioni, internet, i social, la TV, le chat, senza contare i vecchi bar e il passaparola. Per fortuna ci siamo noi, siamo qua apposta a metà giornata per rimettere ordine nelle notizie e per raccontarvi, col Giro d'Italia, piccole e grandi storie dal nostro paese. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutti i giorni alle 13 con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Si sono intrecciati in queste settimane molti anniversari importanti che qui abbiamo ricordato, anche di eventi che sono stati veramente epocali, come la riforma protestante. Un altro lo ricorderemo in questi giorni ed è la rivoluzione d'ottobre. La data, come sapete, è doppia, perché per il calendario giuliano, che era in vigore allora in Russia, cioè nel 1917, la rivoluzione avvenne tra il 24 e il 25 ottobre, che corrisponde al 6-7 novembre. Noi naturalmente seguiamo il calendario gregoriano e quindi lo ricordiamo in questa settimana, segnalando alcuni libri che sono usciti in questa circostanza. Voglio ricordare innanzitutto l'importanza dell'evento. È abbastanza banale ricordare quanto sia stato gravido di conseguenze in tutto il pianeta l'avvento del regime comunista che seguì la rivoluzione d'ottobre, ma sentite da queste righe perché accostarsi ancora a quell'evento. Il crollo dei regimi comunisti in Europa e in Russia negli anni 1989-91 ha comportato l'indebolimento, se non la scomparsa, della dottrina comunista nel mondo. Ma non dovremmo voltare questa pagina della storia recente senza averla letta con attenzione. La dottrina comunista e i regimi che vi si sono ispirati, avendo causato innumerevoli vittime, nel corso degli ultimi decenni sono stati denunciati come criminali e ritenuti responsabili di atti infamanti. Ora, anche se è inevitabile, questa prospettiva criminale, concentrata per tutta la storia del comunismo, sulle vittime e sulla loro sofferenza, non è certo sufficiente a descrivere le molteplici dimensioni del grande cambiamento avviato da questa rivoluzione. Il significato che ha un evento di una tale ampiezza non può ridursi a una semplice condanna morale, politica o giuridica. I suoi diversi aspetti meritano un esame più approfondito, che permetta di comprenderlo meglio e di trarne insegnamenti per noi oggi, a un secolo di distanza dall'evento inaugurale. Queste righe sono di uno dei grandi intellettuali del Novecento, Svetlan Todorov, che è morto proprio nel febbraio di quest'anno. Anzi, queste righe sono tratte da un libro che costituisce, per così dire, il testamento spirituale del grande scrittore bulgaro francesizzato, il cui ultimo libro appunto è quello dal quale è tratto questo brano. Il libro si intitola L'arte nella tempesta, venne pubblicato a un mese dalla morte di Todorov, tradotto da Emanuele Lana per Garzanti, 154 pagine, 22 euro. Sottotitolo: L'avventura di poeti, scrittori e pittori nella rivoluzione russa. E qui infatti Todorov ci dà una lettura particolare della rivoluzione, ossia, come ci illustra egli stesso, spiega i rapporti ideologici che si stabiliscono tra i creatori nei diversi ambiti artistici, la letteratura, la pittura, la musica, il teatro, il cinema, e i dirigenti politici del paese. E questo rapporto seguirà due tempi, e così lo descrive Todorov. Il primo è anteriore all'ottobre del 1917, il secondo tempo invece riguarda il rapporto che si instaurò tra i creatori e i rappresentanti del potere dopo la rivoluzione. Ci sono molti personaggi, molte scoperte in questa ricognizione, per esempio l'influsso potente che ebbe sui leader sovietici a partire da Lenin e poi ancora più marcatamente da Stalin. Il pensiero di Nietzsche, che probabilmente i due dittatori non avevano letto, ma che aveva profondamente permeato il pensiero degli intellettuali che avrebbero alimentato la rivoluzione a partire da Gorky e Bukharin. Quanto a questi ultimi, troveremo i maggiori intellettuali dell'epoca, da Bulgakov a Pasternak a Shostakovich a Eisenstein, e soprattutto a Malevich, il grande pittore, che assume qui quasi un carattere esemplare della difficile, spesso tragica natura del rapporto degli intellettuali col regime comunista, e che il grande artista e grande pittore definirà così: odio allo stato puro, distruttore del riposo, perché il comunismo aspira a sottomettere ogni pensiero e ad annientarlo. Nessun periodo, conclude l'artista, ha conosciuto la schiavitù causata dal comunismo, perché in esso la vita di ciascuno dipende dal proprio capo. Un altro libro che vi segnalo è quello di Ezio Mauro, L'anno del ferro e del fuoco, cronache di una rivoluzione, pubblicato a Feltrinelli, 18 euro, 256 pagine. Mauro torna a San Pietroburgo e in tutta la Russia per rivivere le tappe e i luoghi della rivoluzione e ritrovare naturalmente i protagonisti di cui ci dà il ritratto. Un altro percorso però limitato a Pietroburgo è quello che ci invita a fare Jean Brocken, che è uno scrittore e viaggiatore olandese, bagliori a San Pietroburgo. Questo è pubblicato da Iperborea, è tradotto da Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo, 224 pagine, 17 euro, ed è un percorso parallelo alla Leningrado del regime comunista e alla San Pietroburgo del periodo precedente. Ne incontriamo i grandi protagonisti, tra cui lo stesso Malevich, di cui abbiamo parlato poco fa, e molti altri che, a partire dalla prima figura incontrata nel libro, la poetessa Anna Akhmatova, subirono le persecuzioni del regime. Il nome dell'Akhmatova ricorda che la rivoluzione e le sue conseguenze furono fatte anche da donne, e alcune le incontriamo nel libro di Lorenzo Pezzica, Le magnifiche ribelli, 1917-1921, tradotto dalle Eleutera, 200 pagine, 15 euro. L'autore è uno storico e anche archivista, studioso del pensiero anarchico, che ci presenta alcune storie esemplari di donne coraggiose, alcune rivoluzionarie che non hanno voluto, scrive, conformarsi alla deriva autoritaria dei nuovi vincitori. Erano soprattutto anarchiche queste donne, tra loro troviamo anche quella Dora Kaplan, che il 30 agosto del 1918 sparò a Lenin, lasciandolo per diversi giorni tra la vita e la morte. Al dittatore l'anarchica rimproverava di aver tradito appunto la rivoluzione. Ma il gesto, che fu accompagnato da altri attentati, finì per favorire una durissima repressione. Si calcola che almeno 500 prigionieri siano stati uccisi in reazione a quell'evento soltanto a Pietrogrado. Molte di queste donne erano anche ebree, spesso provenienti dall'Europa orientale, sono rivoluzionarie fino al midollo, coerenti, disilluse appunto dallo sviluppo della rivoluzione d'ottobre, ma fiduciose in un cambiamento radicale. Perciò non sono affatto controrivoluzionarie, come l'avrebbe dipinta la propaganda sovietica, ma donne che si batterono contro una politica risolta, scrive Pezzica, in pura e semplice paura e in delirio di potere. Dopo le anarchiche troviamo i massoni, in un gruppo italiano che all'indomani della rivoluzione di febbraio, quella che dà il via al cambiamento di regime in Russia, che poi sarebbe diventato Unione Sovietica, dopo la rivoluzione di febbraio, dicevo, si recò in Russia per convincere appunto il governo russo, che allora era coinvolto naturalmente nella Prima Guerra Mondiale, a continuare la guerra al fianco degli alleati. Ne facevano parte di quella delegazione un intellettuale poi politico di rilievo, Arturo Labriola, un avvocato di Sanremo, Orazio Raimondo, un giornalista repubblicano, Innocenzo Cappa, e un libraio sovversivo, Giovanni Lerda. La loro missione è ricostruita da Riccardo Mandelli in I Fantastici 4 versus Lenin, una missione della massoneria italiana nella Russia del 1917, pubblicato da Odoi, 208 pagine, 16 euro, ed è un libro questo che ci fa conoscere uno spaccato interessante di quel 17 drammatico, soprattutto del clima concitato che dopo la caduta dello zar portò alla svolta della rivoluzione di ottobre, appunto, i cui protagonisti all'inizio non mancarono di affascinare anche gli italiani. Per esempio Labriola, che, come ci ricorda Mandelli, subì ancora per un po' il fascino di Lenin e spiegò ai riformisti che la prima realizzazione concreta del socialismo non poteva essere respinta con aria inorridita solo perché mostrava qualche tratto di crudeltà. Per chi voglia abbeverarsi alle fonti, segnalo un libro di Lenin pubblicato dal Saggiatore, Economia della Rivoluzione, curato da Vladimiro Giacchè e tradotto da Ignazio Ambrogio, Bernardino Bernardini, Giuseppe Garritano, Augusto Pancaldi, Rossana Platone, 522 pagine, 29 euro. Giacchè qui ci spiega che la scelta dei testi che troviamo cerca di evitare il trionfalismo su Lenin proprio della propaganda sovietica, ma anche aggiunge l'impostazione demonizzante propria di molti lavori recenti. Sono scritti questi tra il 17 e il 23, di carattere soprattutto economico, dal primo concitato appello di Lenin il giorno della rivoluzione fino all'ultimo scritto del marzo del 1923, nel quale Lenin ribadirà lo sforzo per costruire uno Stato, scrive, in cui gli operai mantengano la loro direzione sui contadini, godano della fiducia dei contadini e con la più grande economia eliminino dai rapporti sociali ogni traccia di sperpero. Se la classe operaia, aggiunge Lenin, continuerà a dirigere i contadini, avremo la possibilità, gestendo il nostro Stato con la massima economia, di far sì che ogni più piccolo risparmio serva a sviluppare la nostra industria meccanica, sviluppare l'elettrificazione, l'estrazione idraulica della torba, condurre a termine la centrale elettrica di Volkov, eccetera. Sappiamo come andò a finire. Un'opera narrativa, infine, che ci riporta a quell'anno fatale, quella di Davide Orecchio, Mio padre la rivoluzione, pubblicato da Minimum Fax, 316 pagine, 18 euro. Qui gli anni fatali sono due, perché il 17, per così dire, dialoga col 1956, l'anno dell'invasione d'Ungheria, e del ventesimo congresso del Partito Comunista, che avrebbe avviato la destalinizzazione. E il libro è una serie di racconti, di biografie, di incontri. Troviamo Trotsky ancora vivo nel 56, Lenin, lo stesso Stalin. Sono tutte controstorie e incontri ancora sorprendenti. Per esempio la storia di Gianni Rodari, che nel 1969 fece un viaggio nei luoghi di Lenin, ma, aggiunge Orecchio, si trovò a fare un viaggio non libero, perché l'accompagna la mano sovietica, guida e sindaci funzionari del partito sovietico, si consegnano Gianni Rodari l'un l'altro, loro scelgono i luoghi e le storie, loro decidono le inquadrature, al poeta non resta che metterci lo sguardo che ha e modificare quello che vede con quello che pensa e che sente. E a proposito di Stalin, vi voglio ricordare che è uscito in queste settimane, però per adesso non lo vediamo in Italia, un film che pare molto sarcastico e divertente, di Armando Iannucci, tratto da un romanzo grafico di Fabien Nury e Thierry Robin,